Ormai da 5 anni, una TV che ha vinto una concessione, in concessione ha vinto le frequenze, il bene pubblico che si dà in concessione sulle frequenze praticamente non esiste, non gli sono state mai date. Questo per non toglierle ad altri che invece la concessione non l'hanno avuta, che la gara l'hanno persa, Rete4 e Telepinnese. Sono 5 anni che facciamo ricorsi su ricorsi, siamo andati anche alla Corte Costituzionale, abbiamo anche lì avuto una sentenza che aveva stabilito inequivocabilmente che entro il 31 dicembre 2003 la cosa era chiusa, con Rete4 spenta e noi che cominciavamo a trasmettere. Il governo purtroppo ha fatto un decreto legge Berlusconi per rinviarlo e la legge Gasparri, senza praticamente rispettare la sentenza e le decisioni della Corte Costituzionale, che non c'è niente da fare, Mediaset ne racconta di barzellette, di bufale, di stronzate dalla mattina alla sera, ne racconta tantissime quando gli fanno comodo, e in quel caso gli faceva comodo dire questa cavolata. I dipendenti di Rete4 non esistono, esistono i dipendenti di RTI e di Videotime che lavorano per Canale 5, Rete4 e Italia 1, quindi mandare via 1000 dipendenti per RTI vuol dire praticamente chiudere anche Italia 1 e Canale 5, quindi è veramente una stronzata di dimensioni apocalittiche. Però così hanno sempre fatto, ci hanno sempre raccontato bufale, no? è nello stile dell'azienda e del capo dell'azienda, che lo fa anche ai cittadini italiani da Presidente del Consiglio, quindi è un po' questa la particolarità. Noi invece avremmo sicuramente avuto bisogno di prendere almeno 750 dipendenti per far partire la nostra azienda. Quindi questi erano reali, il resto sono veramente tutte balle. È tutto pronto da 5 anni, ci sono studi, uffici, spazi per l'informazione, spazi per la pubblicità, c'è una sede di 22.000 metri quadrati, studi più importanti del mondo, più belli, più potenti, più moderni. C'è praticamente c'è una library di programmi, c'è tutto quello che c'è, ci sono competenze, esperienze di tanti anni di televisione, però purtroppo lo Stato in questo caso continua a non rispettare gli impegni presi, cioè ci ha dato una concessione timbrata dallo Stato e lo Stato poi non ha rispettato questi impegni. Ma già con la legge che sigilla il monopolio, ma anzi lo fa diventare veramente un monopolio, una dittatura mediatica, è la Gasparri. Il conflitto di interesse è successivo, il conflitto di interesse ti rende atto che lui può fare quello che vuole. La Gasparri è stata fatta per superare la sentenza della Corte Costituzionale che stabiliva che Tele4 dovesse spegnere definitivamente. Quindi per superarla hanno fatto questa Gasparri, ripeto, non rispettando la sentenza della Corte. Con la Gasparri che cosa fanno? Oltre a dare la possibilità a Rete4 di continuare a trasmettere, eliminano il diritto a Rete7 di farlo nel prossimo futuro, cioè eliminano il diritto definitivamente di poterlo più fare, questa è la Gasparri. Però non basta, la Gasparri dà anche la possibilità a Mediaset di crescere a dismisura, di comprare anche la 7, le Telepiù, le radio. Al fratello del Presidente del Consiglio permette anche di comprare naturalmente il Corriere della Sera, perché attraverso questa apertura sulla pubblicità, per cui Pubblitalia può raccogliere tutto quello che vuole praticamente, e poi in questo modo il monopolista, l'impresa dominante può prendersi tutto. Questo è il pericolo grosso della Gasparri, cioè il pericolo, poi ormai aspettiamo qualche mese e vedremo che questo farà Mediaset, già sta trattando delle radio, già sta intervenendo sui diritti sportivi, praticamente ci sarà un monopolio. Beh, le sentenze del TAR ormai non cambierebbero niente, nel senso che non possono intervenire contro la Gasparri, ci danno ragione su tanti aspetti, ma non possono certo cambiare la situazione attuale. Noi al TAR chiediamo anche di riportare la legge Gasparri alla Corte Costituzionale, di rinviare la Gasparri alla Corte Costituzionale per i punti che noi pensiamo di essere anticostituzionali. La speranza che un giorno comunque ci sia un giudice anche a Roma, oltre che come c'è stato a Berlino, cioè quando una cosa è talmente illegittima come tutto questo che sta succedendo, prima o poi qualche giudice ci metta le mani, questa è un po' la nostra speranza, perché purtroppo le istituzioni non hanno retto. Ciampi, che è un'istituzione più importante, non ha retto, perché poi no, è vero che non ha firmato la prima Gasparri, ma ha firmato poi il decreto legge Berlusconi che era illegittimo altrettanto, per poi firmare la seconda Gasparri, ma lì sembrerebbe che non poteva fare altrimenti. Quindi prima grande istituzione non ha retto, seconda istituzione l'autorità per le comunicazioni, Cheli, ma ne ha fatti tutti i colori tranne che fare il proprio dovere e tranne che applicare la legge Maccanico, e che ha stabilito che l'autorità avesse dei compiti ben precisi. Cioè questa autorità in tutti questi anni, con delle sedi megagalattiche, con tanta gente, con tanti funzionari eccetera, che cosa è servita? Per chiudere l'emittente che faceva porno sul satellite? Cioè è ridicolo il tutto. Cioè, ecco, quando quindi le istituzioni, gli arbitri non funzionano, non esistono, è chiaro che le cose poi vanno male. Quindi questo è un paese che nel quale non funzionano più manco le istituzioni. La stessa istituzione europea se n'è abbastanza fregata fino ad oggi, sbagliando clamorosamente, ma qui hanno sbagliato un po' tutti, anche gli alleati, cioè il Follini, i Fini, il Casini che firmano, che approvano la Gasparri, una legge veramente oscena. E poi che cosa succede? Che non appena è stata approvata, colui che ne è il beneficiario la usa contro di loro, dicendo a Follini adesso ti attacco con le mie televisioni. Cioè questo è veramente dilettanti allo sbaraglio, questi non hanno il senso delle istituzioni né dei principi costituzionali.